Eccoci in compagnia con Walter Sardonini, del quale è in corso una mostra, Pagine al vivo, Manifesti per il teatro 1997-2018 al Teatro della Pergola di Firenze. Walter, benvenuto. Sì, buonasera, ciao Federico, ciao a tutti. Sì, Ci racconti un po' dell'idea di questa mostra? io ho iniziato a lavorare per il teatro nel 97, giusto appunto. Ho iniziato a lavorare per il teatro della Pergola in particolare, e poi via via per il teatro di Pontedera, per Fabbrica Europa, che è un festival sulla scena contemporanea che si svolge qui a Firenze, e altre realtà teatrali. Molte di queste poi sono confluite nel Teatro della Toscana, che è il teatro nazionale che fa capo qui a Firenze e coinvolge diversi spazi teatrali. Passati 20 anni, da quel momento iniziale, abbiamo deciso di fare una mostra e ripercorrere attraverso le immagini tutto quello che è avvenuto in questi anni. Senti, qual era stata la tua formazione? Ma dunque, io ho iniziato insomma, dedicandomi alle arti visive, non specificamente alla comunicazione, diciamo così. Ma poi dopo, insomma, mi sono interessato in particolare a questa forma di espressione, perché in qualche modo è una forma molto contemporanea che permette di stare in contatto con la società molto di più che non facendo il pittore chiuso nel proprio studio, insomma, o comunque l'artista, fra virgolette, è più isolato rispetto al mondo. Invece così si riesce a entrare in contatto col mondo, in qualche modo, è una cosa che a me interessa particolarmente. Senti, che tecniche hai prediletto in questi anni? Ma io dunque vengo, la formazione mia, purtroppo per questioni non anagrafiche, è una formazione tradizionale, diciamo così, cioè carta e penna, o matita o quello che è, insomma. Ma poi da tanti anni ormai, anzi io sono stato un neofita in questo senso, il lavoro avviene attraverso la computer grafica e tutti i sistemi informatici che permettono di costruire un'immagine che, nel mio caso, chi andasse a vedere la mostra o chi conosce, insomma, le cose, sono realizzate un po', diciamo, con la tecnica del collage, diciamo così, anche se poi non è collage come tradizionalmente si intende. Sì. Però è una composizione di immagini, fotografie, disegno, lettere, eccetera. Walter, come hai deciso di articolare la mostra? Come è organizzata? Ma ascolta, e sono particolarmente contento del risultato, perché la mostra ha adesso un allestimento site specific, è stato progettato peraltro dagli architetti che fanno parte del mio studio. È stato progettato proprio per la sala oro del Teatro della Pergola, perché succede che là dentro molto spesso c'è l'occasione di realizzare delle mostre. Per esempio, tempo fa, l'adiacente Saloncino, cioè il teatro ridotto, è stato intitolato a Paolo Poli, ed è stata in questa sala realizzata una mostra sul lavoro e sulla vita di Paolo Poli. Ecco, da ora in avanti questa, come tante altre iniziative, spesso ci sono le mostre sui costumi realizzati dal laboratorio del Teatro della Pergola, dal laboratorio d'arte del Teatro della Pergola. Ecco, queste mostre saranno allestite attraverso questo sistema, che è un sistema di pannelli, di teche, basi, basamenti, modulare, può essere adattato in diverse occasioni. Senti Walter, quante sono le opere esposte e poi se ce ne sono alcune alle quali sei particolarmente legato? Ma dunque, quelle a cui sono particolarmente legato è difficile dirlo, molto difficile, dipende dai momenti. Forse una, guarda, forse una, ma proprio perché se ne parlò tantissimo, cioè un manifesto di una stagione di prosa della Pergola in cui la pergola era stata trasformata in una nave, in un bastimento, in un veliero. Raccontarlo è abbastanza difficile, bisognerebbe vederla. In generale, diciamo così, che il modo di rappresentare il teatro in tutte le sue manifestazioni, se sia stagioni di prosa, festival particolari o spettacoli teatrali, che abbiamo adottato ormai appunto 20 anni fa, insomma, un po' di segno l'ha lasciato, nel senso che si diceva, e ancora in fondo si dice, fare un'immagine stile pergola, naturalmente per chi si conosce, per chi vive e opera in questo ambito. E dunque, ecco, no, a quale sono legato? Non lo so, sicuramente a questo stile, a questo modo di lavorare che mi sento particolarmente mio. In mostra ci sono una sessantina di manifesti più piccoli oggetti tipo libretti pieghevoli eccetera, che via via erano legati alle varie iniziative. C'è un bellissimo catalogo realizzato da Edizioni Polistampa che contiene invece molte più immagini, catalogo completamente illustrato, a parte gli apparati critici, testi iniziali eccetera, ma insomma che contiene veramente tante immagini. Hai un tuo sito internet o pagina Facebook per seguire i tuoi lavori? Senti, la pagina Facebook no, il sito internet sì, che è www.socialdesign.eu, che è il social design, è il mio studio di Firenze, il quale io sono socio insieme a altre 5 persone, 3 grafici, siamo 3 grafici e 2 architetti. Perfetto, allora ricordiamo la mostra Pagine al Vivo, Manifesti per il Teatro 1997-2018 al Teatro della Pergola di Firenze, la mostra di Walter Sardonini, che ringrazio, è stato un piacere. Walter, ci si sente prossimamente.